Il gatto che guardò il re. Michael aveva mal di denti e se ne stava a letto piagnucolando e guardando con la coda dell'occhio Mary Poppins. Mary Poppins sedeva indifferente nella vecchia poltrona dipanando della lana. Jane, in ginocchio davanti a lei, le reggeva la matassa. Su dal giardino venivano le grida dei gemelli che giocavano sul prato con Helen e Annabella. La camera dei bambini era quieta e silenziosa. Il pendolo scoccò un rintocco con l'aria soddisfatta di una gallina che ha appena deposto un uovo. Perché io e non Jane devo avere mal di denti? Piagnucolò Michael e allontanò la benda che Mary Poppins gli aveva messa ben aderente sulla guancia. Perché hai mangiato troppi dolci ieri? Obiettò Mary Poppins bruscamente. Ma era il mio compleanno! Protestò il bambino. Un compleanno non è una buona ragione per trasformarti in una pattumiera. Io in simili occasioni non ho mai mal di denti. Michael la guardò. Qualche volta avrebbe voluto che Mary Poppins non fosse così perfetta com'era, ma non avrebbe mai osato dirglielo. Se io muoio, ammonì, ti rincrescerebbe e certamente avresti rimorso di non essere stata un po' gentile con me. Ella sbuffò sdegnosamente e continuò il suo lavoro. Premendosi le mani sulle guance, Michael girò uno sguardo tutt'attorno alla camera dei bimbi. Ogni cosa aveva l'aria familiare di un vecchio amico. La tappezzeria sui muri, il cavallo a dondolo, il tappeto rosso. I suoi occhi si spinsero sino alla mensola del camino dove stavano la bussola, il vaso di ceramica, il barattolo della marmellata pieno di margherite, il bastoncino del suo vecchio cervo volante e il metro a nastro di Mary Poppins. C'era anche il regalo che la zia Flossie gli aveva fatto il giorno prima, il gattino di porcellana bianca con fiori azzurri e verdi disegnati sopra. Sedeva lì, con le sue zampette ben unite e la coda elegantemente arrotolata su di esse. Un raggio di sole batteva sulla sua schiena di porcellana. I suoi occhi verdi guardavano gravemente tutt'attorno nella camera. Michael gli fece un sorriso amichevole. Egli voleva bene alla zia Flossie ed era contento del regalo che ella gli aveva portato. Il suo dente gli diede una terribile fitta. Ai! Gridò. Sta scavando un buco direttamente nella mia gengiva. E guardò pateticamente Mary Poppins. E nessuno se ne cura, aggiunse amaramente. Mary Poppins lo fulminò con un sorriso ironico. Non guardarmi così, piagnucolò Michael. E perché no? Un gatto può guardare il re, suppongo. Ma io non sono il re, egli brontolò offeso. E tu non sei un gatto, Mary Poppins. Sperava così che Mary Poppins attaccasse una discussione e lo distraesse dal suo dente. Credi forse che un gatto possa guardare il re? Il gatto di Michael lo può? Domandò Jane. Mary Poppins guardò in su. I suoi occhi azzurri incontrarono quelli verdi del gatto. Vi fu una pausa. Ogni gatto, disse finalmente Mary Poppins, ma questo molto più degli altri. Sorridendo fra sé, ella prese di nuovo il gomitolo di lana, quando qualcosa si mosse sulla mensola del camino. Il gatto contrasse i suoi baffi di porcellana, alzò la testa e sbadigliò. I bambini poterono vedere i suoi denti smaglianti ed una lunga lingua rosa di gatto. Il gatto poi inarcò la schiena fiorita e si stirò pigramente. Dopo di ciò, con un colpo di coda, saltò giù dalla mensola del camino. Hop! Le zampine avanzavano sul tappeto. Prrr! Disse il gatto, saltando sopra gli alari del focolare. Si fermò un momento vicino a Mary Poppins e le fece un cenno amichevole. Poi saltò sul davanzale della finestra e si inoltrò nella luce abbagliante del sole, come se vi si immergesse. E sparì. Michael, per la meraviglia, dimenticò il suo mal di denti e rimase a bocca aperta. Jane lasciò cadere la matassa e guardò attonita. Ma, balbettarono insieme, come mai? Perché? Dov'è? A vedere la regina, rispose Mary Poppins. La regina è in casa ogni secondo venerdì del mese. Non guardare così intontita, Jane. Il vento può cambiare. Chiudi la bocca, Michael, il tuo dente prenderà freddo. Ma voglio sapere che cosa è successo, gridò il bambino. È di porcellana, non è un gatto vero, eppure saltava, l'ho visto io. Ma perché vuol vedere la regina? Chiese Jane. Per i topi, rispose Mary Poppins con calma, e anche per paura della vecchia strega. Un pensiero lontano passò nei suoi occhi e le sue mani caddero inerti sul gomitolo di lana. Jane lanciò uno sguardo d'intesa a Michael, egli prudentemente scivolò giù dal letto e attraversò la stanza. Ma Mary Poppins non badava a lui, mirava pensosamente fuori della finestra con occhi assenti. Una volta, nei tempi andati, ella cominciò lentamente, come se leggesse nel pulviscolo dorato del sole. Una volta, nei tempi andati, viveva un re che credeva di sapere praticamente ogni cosa. Non posso nemmeno cominciare a dire tutte le cose che gli credeva di sapere. La sua testa era piena di fatti e di figure, così come una melagrana è colma di chicchi. E appunto per questo il re era un uomo estremamente distratto. Potrete appena credermi se vi dico che egli dimenticava persino il suo stesso nome, che era Nicola. Il primo ministro, però, aveva una memoria eccellente e glielo ricordava di tanto in tanto. Ora, l'occupazione preferita del re era di pensare. Pensava tutta la notte e per tutta la giornata. Pensava mentre pranzava e pensava anche quando era nel bagno. Non si accorgeva mai di quello che accadeva sotto il suo naso perché, naturalmente, era occupato a pensare a qualcos'altro e le cose che gli pensava non erano, come potreste immaginare, il benessere del suo popolo e la maniera di renderlo felice, niente affatto. La sua mente era sempre occupata in altri problemi, il numero dei babbuini in India, per esempio, e se il Polo Nord era lungo come il Polo Sud, e se i porcellini potevano imparare a contare. E non solo tormentava se stesso con questi problemi, ma obbligava tutti gli altri ad occuparsene. Tutti, eccetto il primo ministro, che non era affatto un uomo di pensiero, ma un vecchio signore che amava starsene seduto al sole senza mai muovere un dito. Stava attento però che ciò non fosse risaputo, perché aveva una gran paura che il re gli facesse tagliare la testa. Il re viveva in un palazzo costruito completamente in cristallo. Nei primissimi tempi del suo regno il palazzo scintillava con tanto splendore che i passanti, per timore di essere accecati, dovevano coprirsi gli occhi. Però, un po' alla volta, il cristallo divenne sempre più opaco e la polvere del tempo coprì il suo splendore. Nessuno aveva tempo da perdere per lustrarlo, perché tutti erano troppo occupati nel raiutare il re a pensare e a ripensare. Ogni momento i sudditi ricevevano l'ordine di lasciare il loro lavoro e precipitarsi dal monarca per aiutarlo nelle sue occupazioni. Andare in Cina, per esempio, per contare i bacchi da seta, oppure andare a vedere se le isole Salomone erano governate dalla regina di Saba. E quando ritornavano da questi viaggi con i resoconti dei fatti visti, il re e i cortigiani trascrivevano su grandi registri rilegati in cuoio tali resoconti. Se poi qualcuno ritornava senza una risposta, gli si tagliava immediatamente la testa. L'unica persona nel palazzo che non aveva proprio nulla da fare era la regina. Tutto il giorno se ne stava seduta sul suo trono d'oro, giocherellando con la collana di fiori azzurri e verdi che portava al collo. Qualche volta balzava su con un urlo e stringeva attorno a sé il mantello di ermellino, perché il palazzo, sempre più sporco, era infestato dai topi. E i topi, come tutti vi possono affermare, sono cose che una regina non può assolutamente sopportare. Oh, oh! Ella soleva dire con un sospiro mentre saliva sul seggio del trono. E ogni volta che ella urlava, il re si accigliava. Silenzio, per favore! Egli gridava con voce irata, perché il più piccolo rumore disturbava i suoi pensieri. Allora i topi si disperdevano per un momento, e nessun rumore si udiva più nella gran sala, all'infuori dello scricchiolio delle penne d'oca, poiché il re e i cortigiani aggiungevano sempre nuovi fatti agli altri nei grandi registri di cuoio. La regina non impartiva mai ordini, nemmeno alle sue dame di compagnia, perché il re dava subito un contrordine. Riparare la gonna della regina? Egli diceva offeso. Quale gonna? Quale perdita di tempo parlar di gonne? Su, prendete una penna invece, scrivete queste note sulla fenice. Che terribile stato di cose, direte voi. Infatti, non posso darvi torto. Ma non dovete credere che fosse stato sempre così. La regina, mentre sedeva tutta sola sul trono, ricordava spesso i primi tempi del suo matrimonio con il re. Com'era alto e bello allora, il collo forte bianco, le gote rosee e i ricci ben pettinati e ravviati sul capo come petali di una camelia. Ah, sospirava la regina, rivivendo quei tempi. Egli la nutriva allora con i dolci al miele e pane imburrato che prendeva dal suo stesso piatto. Il suo viso era illuminato da tanto amore che alla regina il cuore batteva forte nel petto, costringendola a guardare altrove, tanto era grande la sua felicità. Ma finalmente arrivò una sera fatale. I tuoi occhi sono più luminosi delle stelle, egli disse guardando il suo viso e poi il cielo scintillante di astri. Ma invece di girarsi verso di lei, come faceva sempre, egli continuava a guardare fisso in su. Mi domando, continuò come in un sogno, quante stelle vi sono? Io credo che potrò contarle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, e continuò a contare mentre la regina si addormentò vicino a lui. 1249, stava dicendo quando la regina si ridestò. Dopo di ciò non fu soddisfatto finché non fece saltar giù dal letto i suoi cortigiani e li costrinse a contare le stelle, e siccome non vi furono due risposte uguali, il re andò sulle furie. Da qui ebbe inizio tutta la storia. Il giorno dopo il re esclamò: Le vostre guance, mia cara, sono come due rose. La regina fu molto lieta, ma poi egli aggiunse: Ma perché poi rose? Perché non cavoli? Perché mai le guance sono rosa e i cavoli verdi e non viceversa? Questo è un problema molto serio. Il terzo giorno egli le disse che i suoi denti sembravano perle, ma senza darle nemmeno il tempo di sorridere aggiunse: E se i denti fossero veramente delle perle? Ognuno ha, dopo tutto, un certo numero di denti e per lo più sono perlacei. Le perle, però, sono rarissime. È molto importante pensare a queste cose. Così il re radunò i migliori tuffatori del regno e li mandò giù nel profondo del mare. E da quel giorno pensava e pensava sempre. Ormai era soltanto occupato ad imparare cose nuove e non guardava più la regina. Veramente, se avesse girato lo sguardo verso di lei, non l'avrebbe forse nemmeno vista, perché aveva così estremamente lavorato sui suoi libri e sulle sue carte che la vista gli si era in breve tempo accorciata. Il suo viso rubicondo e paffuto era diventato magro e grinzoso e i suoi capelli assai presto si erano incanutiti. Non mangiava quasi nulla, eccetto un panino imbottito di formaggio e cipolla, quando il suo vecchio primo ministro gli diceva che il pranzo era servito. Bene, voi potete facilmente immaginare quanto si sentisse sola la regina. Di tanto in tanto il primo ministro si avvicinava prudentemente sino al trono e le accarezzava gentilmente la mano, qualche volta il paggetto, che aveva l'incarico di riempire i calamai, alzava gli occhi fino a lei e le sorrideva mentre il re le voltava le spalle, ma né il vecchio gentiluomo né il ragazzo potevano spendere troppo tempo per divertire la regina, per timore di rimetterci la testa. Non dovete però credere che il re intendesse essere malvagio, nemmeno per sogno. Gli pareva che i suoi sudditi fossero più felici degli altri. Non avevano forse un re che effettivamente sapeva ogni cosa? Invece, mentre egli era occupatissimo nell'acquistare nuove cognizioni, il suo popolo diventava sempre più povero. Le case andavano in rovina, i campi erano incolti perché il re aveva bisogno di tutti gli uomini perché lo aiutassero nelle sue ricerche. Finalmente spuntò un giorno in cui il re e i cortigiani erano occupatissimi come al solito alle loro tavole di lavoro nella sala del consiglio. La regina sedeva, ascoltando lo scricchiolio delle penne, gli squittii dei topi nell'assito del pavimento e guardandosi le mani. E mentre ella se ne stava così tranquilla, un topo più ardito degli altri strisciò sul pavimento e venne a leccarsi i baffi proprio sotto il trono. La regina emise un debole grido di paura, si tappò subito la bocca con le mani per paura di disturbare il re e poi, dopo essersi avvolta nel suo manto di ermellino, rimase seduta tutta tremante. In quello stesso momento i suoi occhi atterriti dalla cima della sua mano scorsero sulla soglia della sala un gatto. Un gattino era, soffice e morbido, come quel fiore che si chiama il dente di leone, e dai baffi alla coda, bianco come lo zucchero. Il micio veniva avanti con passo ozioso, dondolandosi un poco, come se non avesse proprio niente da fare e tutto il tempo a sua piena disposizione. Un paio d'occhi verdi splendevano sul suo musetto mentre girovagava verso la porta. Si fermò un momento sull'orlo del tappeto, guardando curiosamente il re e i cortigiani chini sui loro libri. Poi gli occhi verdi si volsero alla regina. Alla fine fece un balzo e si irrigidì, inarcò il dorso a gobba di cammello e i suoi baffi si drizzarono come fili di acciaio. Poi, balzando attraverso la camera del consiglio, si precipitò sotto il trono. Si udì un grido selvaggio di gatto, «Mau!», uno squittio subito smorzato, e il topo scomparve. «Silenzio, per piacere! Non fate tanto chiasso, mia cara! Interrompi i miei pensieri!» gridò il re indignato. «Non sono stata io!» disse timidamente la regina. «È stato un gatto!» «Gatti?» disse il re distrattamente, senza nemmeno sollevare la testa. «I gatti sono degli animali quadrupedi, coperti di pelliccia, mangiano topi, pesce, fegato e uccelli, e si esprimono facendo le fuse e miagolando, ed è credenza popolare che abbiano 9 vite. Per più ampie informazioni sui gatti, vedi alla pagina 2, settimo volume, scaffale di, nella biblioteca numero 5, alla tua sinistra entrando, e... Ma che cos'è questo?» Con un balzo, il re sollevò la testa dalla pagina perché il gatto stava seduto sullo scrittoio, davanti a lui. «Sii un po' cauto», disse il re offeso. «Sei proprio andato a cacciarti sulle mie ultime importanti ricerche concernenti la gallina faraona?» «Si tratta di un problema essenziale. Le faraone vengono realmente dal paese dei faraoni? Se no, perché si chiamerebbero così?» «Ebbene, che cosa vuoi? Su, parla, non borbottare!» «Vorrei solo guardarti», disse con calma il gatto. «Mau!» «Oh, vuoi questo? Bene, si dice che un gatto può guardare un re, e io non faccio obiezioni, fa pure!» Il re si piegò all'indietro sulla sedia e girò il capo da destra a sinistra finché il gatto potesse ben guardarlo da tutte le parti. Pensosamente il gatto guardava il re. Vi fu una lunga pausa. «Ebbene», disse il re con un sorriso indulgente, «posso chiederti che cosa pensi di me?» «Non un granché», disse il gatto con aria indifferente, mentre si leccava una delle zampette anteriori. «Mau!» «Che cosa?» gridò il re. «Non un granché? Davvero? Mia povera bestiolina ignorante, evidentemente tu non sai quale re stai guardando!» «Oh, tutti i re si assomigliano, mau!» disse il gatto. «Niente affatto!» si infuriò il re. «Ti sfido a nominarmi un solo re che sappia tante cose quante ne so io. Ma come? Vi sono professori che vengono da tutte le parti del mondo per consultarmi per una sola mezz'ora. La mia corte è composta dalle più eminenti personalità. Gianni, l'uccisore del gigante, coltiva il mio giardino. I miei greggi sono custoditi niente meno che da un uomo come Pietro, lo spaccamontagne. Alla mia corte mangiamo focacce manipolate con 24 merli. Cose mai viste davvero. E chi sei tu per parlare in tal modo a un re come me? Mi piacerebbe proprio saperlo.» «Oh, miau, soltanto un gatto», replicò il gatto. «Quattro zampe, una coda e un paio di baffi.» «Questo lo so da me», sbuffò il re. «Non mi importa sapere come sei fatto. Ciò che mi interessa è di sapere che cosa sai.» «Oh, mau, tutto», disse tranquillamente il gatto, leccandosi la punta della coda. «Che dici?» scattò il re offeso con uno spruzzo di saliva. Presuntuosa creatura, ho proprio voglia di farti tagliare la testa. Fallo pure, miau, disse il gatto, ma al momento opportuno. Tutto sapresti. Ma come, assurdo animale, non vi è nessun essere vivente che possa essere così sapiente, nemmeno io. Nessun essere vivente ad eccezione dei gatti, miau, il gatto rispose. Tutti i gatti, ti assicuro, sanno tutto. Benissimo, grugnì il re, lo dovrai provare. Se sei così intelligente, ti chiederò di rispondere a 3 domande e poi si vedrà quel che si vedrà. Sorrise con malizia, poiché quello sciagurato gattino insisteva nel vantarsi, ne avrebbe dovuto sopportare le conseguenze. Ecco, disse il re appoggiandosi allo schienale della sedia e incrociando le braccia. La mia prima domanda è: un momento, per piacere, interruppe tranquillamente il gatto. Non posso cominciare a rispondere alla tua domanda se prima non ne fissiamo i termini. Nessun gatto farebbe mai una cosa così sciocca. Miau. Sono pronto a fare una scommessa con te, ma a queste condizioni. D'accordo che tu mi ponga 3 domande? Dopodiché è perfettamente giusto che io ti interroghi a mia volta. Il vincitore governerà il tuo regno. I cortigiani smisero di scrivere per la sorpresa. Per lo stupore il re aveva gli occhi fuori dalla testa, ma inghiottendo le parole che gli salivano alle labbra, sorrise sdegnosamente. Benissimo, disse sprezzante. Sarà una gran perdita di tempo e la pagherai tu, non io. Ma accetto la sfida. Togliti allora la corona, mau, comandò il gatto e posala sulla tavola fra noi due. Il re si strappò la corona di testa e le gemme scintillarono al sole. Finiamola con queste sciocchezze. Devo continuare il mio lavoro, disse offeso. Sei pronto? Ecco qui la mia prima domanda. Se prendi degli uomini che misurano 6 piedi di altezza e li metti coricati facendo attenzione che le estremità dell'uno tocchino le estremità dell'altro, quanti ce ne vogliono per girare tutta attorno all'equatore? Facilissimo. Miau, rispose il gatto sorridendo. Non hai che da dividere la lunghezza per 6. Esclamò il re sorridendo con aria di superiorità. Tutto ciò è giusto, ma qual è la lunghezza? La lunghezza che ti pare, aggiunse il gatto con spirito. Miau. Poiché in realtà non esiste l'equatore, è una linea puramente immaginaria. Miau. La faccia del re si oscurò di disapprovazione. Bene, disse imbronciato, dimmi questo, che differenza c'è tra un elefante e un facchino di ferrovia? Nessuna differenza, ma disse subito il gatto, perché tutte e due portano dei pesi. Ma, protestò il re. Queste non sono le risposte che io mi aspettavo, dovresti cercare di essere un po' più serio. non posso servirti come ti aspettavi, ma disse il gatto. Queste sono le esatte risposte alle tue domande, quale ogni gatto potrà dare. ma Il re, seccato, strinse le labbra. Questa assurdità sta oltrepassando lo scherzo, è una farsa. Non sono altro che ciarle. Ebbene, qui vi è la mia terza domanda. Rispondi se vuoi. Avreste potuto vedere dal sorriso trionfante del re che questa volta pensava di aver portato il gatto esattamente al punto desiderato. Alzò con un gesto pomposo la mano e cominciò. Se una dozzina di uomini che lavorano 8 ore al giorno avessero da scavare una buca profonda 10 miglia e mezzo, quanto tempo ci vorrebbe, contando le domeniche, prima che possano gettar via le loro vanghe? Gli occhi del re brillavano di astuzia mentre guardava il gatto, ma questi aveva già pronta la sua risposta. 2 secondi, disse subito battendo leggermente la coda. 2 secondi? Ma sei matto? Degli anni dovresti dire. Il re si fregò contento le mani al pensiero che il gatto si era sbagliato. Lo ripeto, disse il gatto. Ciò richiederebbe loro 2 secondi, perché scavare una tal buca sarebbe davvero pazzesco. Profonda 10 miglia. essi direbbero: e perché mai? Mau! Ma non è questo il problema, disse offeso il re. Ma ogni domanda ha il suo problema, mau! Il problema è proprio il movente della domanda. Ed ora, disse il gatto, è il mio turno, credo. Il re scrollò rabbiosamente le spalle. Bene, sii breve, mi hai fatto sprecare abbastanza tempo. Oh, le mie domande sono brevi e molto semplici, lo assicurò il gatto. Un gatto le risolverebbe con un semplice batter di baffi. Speriamo che un re sia altrettanto intelligente. Ora ecco la mia prima domanda. Quanto è alto il cielo? Il re grugnì soddisfatto. Era proprio quello il genere di domande che gli andavano a genio. Sorrise perciò con aria di chi la sa lunga. Naturalmente, cominciò, tutto dipende. Se lo si misura da un livello piano, sarà un'altezza. Dalla cima di una montagna, un'altra altezza. Tenuto conto di ciò, potremmo determinare la latitudine e la longitudine, l'ampiezza, la grandezza e la moltitudine, senza dimenticare l'atmosfera, la matematica, l'acrobatica, l'algebra e le generali depressioni, espressioni, impressioni, confessioni e tutto il resto. Scusami, mau, l'interruppe il gatto. Ma questa non è una risposta. Prova ancora, per favore. Quanto è alto il cielo? Mau! Gli occhi del re ebbero lampi di collera e di sdegnato stupore. Nessuno aveva mai osato interromperlo prima di allora. Il cielo! Tuonò la sua voce. È alto! È alto! Ebbene, naturalmente non posso dirti quanto misuri in metri. Ti assicuro che nessuno te lo potrebbe dire. Probabilmente è alto! Desidero una risposta esatta. Miau! Disse il gatto, guardando ora il re, ora i cortigiani sbalorditi. Nessuno qui, in questo luogo consacrato alla scienza, può rispondere alla mia domanda? Nervosamente, guardando il re, il primo ministro alzò una mano tremante. Ho sempre supposto, mormorò timidamente, che il cielo fosse un po' più alto di un volo d'aquila, ma sono un povero vecchio ormai e probabilmente mi sbaglio. Il gatto batté insieme le zampine bianche come lo zucchero. No, no, hai ragione, protestò gentilmente. Il re sbuffò rabbiosamente. Sciocchezze, chiacchiere prive di senso. Il gatto, alzando una zampina, richiamò il silenzio. Vuoi rispondere alla mia seconda domanda, per favore? Dove si può trovare il latte più dolce? Immediatamente il viso del re si schiarì e prese un'espressione fiduciosa. Oh, è semplice come l'ABC, disse maestosamente. Naturalmente si trova in Sardegna. Laggiù le mucche vivono fra il miele e le rose, il loro latte è dolce come uno sciroppo dorato. Forse potrei anche dire che si trova nelle isole dell'eleganza, dove se si nutrono solamente di canna da zucchero, oppure in Grecia, dove pascolano nell'erba candita. Però, considerando... Non posso considerare nulla, miau, disse il gatto, tranne che non hai risposto alla mia domanda. Dov'è il latte più dolce, o re? Io lo so, esclamò il paggetto, restando un momento da riempire un calamaio. È in una scodella presso il focolare. Il gatto fece un segno di approvazione al ragazzo e sbadigliò in faccia al re. Pensavo che tu fossi tanto intelligente, miau, disse con malizia. Non lo nego, sarai il più saggio dei re, ma a altri ha risposto alle mie domande. Non irritarti, però, miau, continuò, già che il re stava fulminando con lo sguardo il paggetto. Ti resta ancora una possibilità di vincere. Ecco la mia terza domanda. Qual è la cosa più forte del mondo? miau. Gli occhi del re sfavillarono. Questa volta era proprio sicuro di sapere dare la risposta esatta. La tigre, rispose con l'aria di chi dice una cosa profonda. È molto forte la tigre, Anche il leone e il cavallo, è vero, sono molto forti. Poi, naturalmente, vi sono le correnti del mare e le venature di granito delle montagne, e anche i vulcani hanno una forza immensa, e le nevose cime di ghiaccio ai poli, o anche potrebbe essere la Grande Muraglia cinese. O anche potrebbe non esserlo, interruppe il gatto. C'è qualcuno che possa dirmi qual è la cosa più forte? Ancora una volta, gira lo sguardo attorno alla sala del consiglio e questa volta fu la regina a parlare. Io credo, disse ella con grazia, che debba essere la pazienza, perché a lungo andare è la pazienza che supera tutte le cose. Gravemente, gli occhi verdi si posarono un momento sulla regina. È proprio questo. Riconobbe con calma il gatto e girandosi posò una zampa sulla corona. Oh, il più saggio dei monarchi, gridò. Tu sei senza dubbio un eminente filosofo e io, miau, un comunissimo gatto, ma ho risposto a tutte le tue 3 domande e tu non hai risposto a una sola delle mie. Il risultato della contesa, miau, è chiaro, credo. La corona appartiene a me. Miau. Il re rise altezzosamente. Ah, non essere così sciocco. Che vorresti farne? Tu non puoi dettare e scrivere. Dare il mio regno a un gatto? Mi farei impiccare piuttosto. Il gatto rise di cuore. Vedo che con tutta la tua sapienza non conosci nemmeno una storia di fate. Se tu la conoscessi, sapresti che basta solo mozzare la testa a un gatto perché ne salti fuori un principe travestito. Racconti di fate? Oh, non mi interessano, io penso al mio regno. Il tuo regno? Miau? Disse il gatto. Perdonami se te lo ricordo. Ormai, miau, non è più affar tuo. Ora tutto ciò che ti spetta ancora è di farmi tagliare la testa. Il resto puoi lasciarmelo, dato che ormai non ne hai più bisogno. Miau. Io prenderò al mio servizio quest'uomo saggio, che è il tuo primo ministro, questa donna Miau. perspicace, che è tua moglie, e questo assennato ragazzo, che è il tuo paggetto. Lascia che prendano i loro cappelli e che vengano con me, e tutti e quattro insieme governeremo il regno. Ma che cosa sarà di me? Gridò il re. Dove andrò? Come vivrò? Gli occhi del gatto lo fissarono severamente. A questo avresti dovuto pensare prima. Molti ci pensano 2 volte prima di fare una scommessa con un gatto. Miau. Ebbene, sfodera la tua spada, o uomo dotto. Spero che la lama sia ben tagliente, affilata. Fermo! Gridò il primo ministro posando la mano sull'elsa della spada del re. Poi, volgendosi verso il gatto, si inchinò rispettosamente. Sire, egli disse con calma, ascoltami. È vero che hai vinta la corona in giusta e uguale competizione, e può anche essere che tu sia davvero un principe, ma io non posso accettare la tua offerta. Ho servito fedelmente il re fin da quando ero un paggio alla corte di suo padre. Ora, che egli sia incoronato o no, capo di un regno o vada vagabondo per strade solitarie, io lo amo lo stesso. Egli ha bisogno comunque di me. Non verrò con te. Nemmeno io, disse la regina e si alzò dal suo trono d'oro. Sono rimasta a fianco del re sin da quando egli era giovane, bello e forte. Per molti e molti anni sola l'ho aspettato in silenzio. Che egli sia saggio o pazzo, ricco o senza un tozzo di pane, io lo amo. E ho bisogno di lui, io non verrò con te. E nemmeno io, disse il giovane paggio, tappando la sua bottiglia. Questa è la sola casa che io abbia mai conosciuta, e il re è il mio re, e io sono assai triste per lui, e poi in fondo mi diverte riempire i calamai. Io non verrò con te. Allora il gatto ebbe uno strano sorriso, e i suoi verdi occhi fissarono scintillando i 3 che l'avevano rifiutato. Che cosa avete da dire, o re? domandò volgendosi verso lo scrittoio. Ma nessuna parola fece eco alla domanda. Il re piangeva. Oh, uomo sapiente, Mau, perché mai piangi? Chiese il gatto. Perché ho vergogna di me stesso, singhiozzò il re. Ero fiero della mia intelligenza. Pensavo di sapere tutto, quasi, e ora trovo che un vecchio, una donna e un ragazzo sono più saggi di me. Non cercate di confortarmi, disse piangendo, mentre la regina e il primo ministro gli stringevano le mani. Non ne sono degno, non so proprio nulla, nemmeno chi io sia. E nascose il viso fra le mani. Oh, sì, so che sono un re, continuò. So il mio nome e il mio indirizzo, naturalmente, ma non so, dopo tutti questi anni, chi veramente, realmente io sia. Guardami, e lo saprai. Miau, disse il gatto con calma. Ma ti ho già guardato, singhiozzò il re nascondendo il viso nel suo fazzoletto. Non molto bene, insistette il gatto con gentilezza. Mi hai soltanto guardato di sfuggita ogni tanto. Miau. Un gatto può guardare un re, tu hai detto. Ma anche un re? Miau. Può guardare un gatto. Se lo fai, saprai chi sei. Guardami negli occhi e cerca di vedere. Il re sollevò il viso dal suo fazzoletto e fissò il gatto attraverso le lacrime. Gli occhi del re errarono sul musetto bianco e tranquillo e finalmente si fissarono negli occhioni verdi del gatto. In quello sguardo luminoso e profondo, egli vide riflessa la sua propria immagine. «Più vicino, Mao, più vicino», comandò il gatto. Obbediente, il re si chinò ancora più vicino e mentre egli intento guardava gli occhi impenetrabili, sul suo viso avvenne uno strano cambiamento. Lentamente il volto magro e grinzoso divenne più grasso, le gote pallide divennero rosee e rotonde e mentre le rughe sulla fronte si spianavano, dei riccioli coprirono la sua testa e una barbetta bruna spuntò sul mento brizzolato. Il re ebbe un gesto di sorpresa e sorrise. Un uomo piacente e lieto rise negli occhi tersi come uno specchio del gatto. «Oh, mio glorioso fantasma, sono io questo!» egli esclamò. «Ecco, ora so veramente chi sono. E non sono, no, l'uomo più intelligente del mondo!» E alzando la testa con un riso felice continuò. «Oh, vedo ben tutto ora. Non sono affatto un uomo di pensiero. Sono soltanto un uomo felice.» Egli agitava le mani davanti ai suoi cortigiani stupiti. «Ecco, voi portate via queste penne e questi quaderni, gettate via tutti gli appunti, bruciate gli scrittoi, e se qualcuno mi accenna ad una sola ricerca di mia mano, gli taglierò la testa.» E con un'altra rumorosa risata abbracciò il primo ministro con tanta forza quasi da soffocarlo. «Perdonami, amico mio fedele», egli esclamò. «E portami la mia pipa e una tazza di vino dolce e caldo, e chiamami i tre violinisti. E tu, gioia mia, mio tesoro, mia colomba», disse aprendo le braccia verso la regina, «oh, dammi di nuovo la tua mano, oh mia amata, mai più ti lascerò!» Lacrime di gioia rigarono le guance della regina, e il re dolcemente le asciugò. «Non ho bisogno delle stelle del cielo», egli mormorò, «perché le ho qui, nei tuoi occhi!» «Perdonami se ti interrompo. E io?» «Miau!» domandò il gatto. «Ebbene, hai avuto il regno, hai avuto la corona, che cosa vuoi di più?» chiese a sua volta il re. «Beh, miau!» disse il gatto. «Non mi servono in fondo. Accettali, ti prego, come un dono di amicizia. Però un gatto non dà niente per niente. In cambio, ti domando due piccole cose. Miau!» «Oh, qualsiasi cosa», disse il re con un gesto largo da gran signore. «Mi piacerebbe, di tanto in tanto, miau», disse il gatto, «venire a palazzo per vedere...» «Me? Oh, ma certamente, sarai sempre il benvenuto», interruppe il re con un riso soddisfatto. «Per vedere la regina, miau», continuò il gatto come se non avesse udito la risposta del re. «Oh, la regina, ma benissimo, quando ti farà piacere puoi aiutarci anche a cacciare i topi.» La mia seconda richiesta, miau, proseguì il gatto, è la catenella di fiori verdi e azzurri che la regina porta al collo. Oh, prendila e che ti porti fortuna, disse il re con gentile arguzia. Era solo una catenella a buon mercato, in fondo. La regina portò le mani al collo e, sciolta la collana dolcemente, la mise attorno al collo del gatto e la allacciò attorno al corpo peloso, facendola passare sopra e sotto la coda. Poi, profondamente e a lungo, ella guardò negli occhi verdi del gatto e il gatto guardò lei. In quello sguardo stavano tutti i segreti che le regine e i gatti custodiscono nel cuore, nascondendoli a tutti. Il mio giorno di visita è il secondo venerdì di ogni mese, disse la regina sorridendogli. Io verrò puntualmente, miau, promise il gatto con un cenno di ringraziamento. Detto questo, si volse e senza guardare più nessun altro attraversò la camera del consiglio. La collana azzurra e verde splendeva sulla pelliccia candida e la coda ondeggiava su e giù come una bandiera. Insomma, chiamò il re mentre il gatto se ne andava. Sei sicuro di essere veramente un principe travestito? Avrei potuto senza pericolo tagliarti la testa? Il gatto si volse indietro e lo guardò gravemente, poi sorrise del suo riso malizioso. Niente è certo in questo mondo. Miau! Addio! Disse la bestiola dagli occhi verdi e balzò attraverso la soglia inondata di sole e lentamente scese la scala del castello. Sul tappeto erboso del giardino reale, una vacca rossiccia stava ammirando la propria immagine riflessa in un laghetto ornamentale. Chi sei? Essa chiese mentre il gatto le passava vicino. Io sono il gatto che guardò il re, egli rispose. E io, essa notò con un movimento del capo, sono la mucca che salì sulla luna. Oh, davvero? Disse il gatto. E come mai? La mucca ristette, attonita. Non le avevano mai rivolta una simile domanda e improvvisamente essa si rendeva conto che vi era altro da fare che salire sulla luna. Ora che tu me lo ricordi, disse timidamente, credo di non averlo mai saputo con precisione e trotterellò via sull'erba per rifletterci su. In mezzo al giardino un grande uccello grigio sbatteva rumorosamente le ali. Quan, quan, quan, quan, quan. Io sono l'oca che cova le uova d'oro. Essa fece con orgoglio. Davvero? Disse il gatto. E dove sono le uova? Miau! Le mie uova? L'oca rigirava un ciuffo di penne. Ebbene, qua qua! Adesso che me lo ricordi, non ne ho affatto. Ho sempre sentito che mi mancava qualcosa, qua qua! E corse a fare un nido e a covare un uovo comune. Plop! Un'ombra verde piombò sulla fronte del gatto. Io sono la rana che volle fare all'amore, crà! Me ne vuoi parlare allora? Miau! Disse con gravità il gatto, perché spero che tu sia sposata bene. Veramente, ora che me lo ricordi, crà! Non proprio esattamente, infatti, no! Crà! Confessò la rana. Ah! Disse il gatto scuotendo il capo. Devi avere ubbidito a tua madre? Miau! E prima che la rana battesse ciglio, il gatto era andato oltre per il viale del giardino. I suoi baffi vibravano nell'aria fresca mattutina, la collana verde e azzurra brillava al sole e dietro a lui la coda bianca ondeggiava come una bandiera. Come egli sparì dietro le porte del palazzo, tutti quelli che l'avevano visto si sentirono ricchi e felici. La mucca e l'oca e la rana erano felici perché ora avevano smesso di fare stupide cose senza capo né coda. Anche i cortigiani erano tutti felici. Di giorno danzavano al suono dei violini e la notte bevevano ad una coppa senza fondo. Il re poi era addirittura raggiante perché non pensava più a nulla e la regina aveva ben ragione di essere contenta di fronte alla felicità del suo sposo. Anche il paggetto era contento. Infatti ora egli poteva riempire i calamai d'inchiostro e vuotarli di nuovo nella bottiglia senza che alcuno gli dicesse parola. Ma il più felice di tutti al mondo era il vecchio primo ministro. Sapete che cosa fece? Egli emanò un proclama. Il re comandava i suoi sudditi, esso diceva, di rizzare le impalcature delle maggiolate e di danzarvi attorno, di tirar fuori le giostre e di sfogarsi a cavalcare, di danzare, di essere in festa, di cantare, di prosperare e di amarsi l'un l'altro teneramente. Inoltre, e ciò era messo bene in grande, il re avrebbe fatto tagliare la testa a chi disobbedisse a questi ordini. Dopodiché il primo ministro sentì che ormai aveva lavorato abbastanza e passò il resto dei suoi giorni a non far nulla, sedendo al sole sulla sua sedia a sdraio e sventolandosi leggermente con un ventaglio di foglie di palma. In quanto al gatto, continuò il suo cammino per le vie del mondo, sempre con il collo adorno della splendente collana della regina e osservando ogni cosa con i suoi verdi occhi penetranti. Qualcuno dice che egli se ne va ancora vagabondando, poiché il passato e il futuro sono lo stesso per lui, e sempre e dove gli va cerca qualcuno che voglia ricambiargli lo sguardo, sia un re o un pastore, oppure una persona qualsiasi che se ne vada per le vie della città. Quando trova qualcuno, sta con lui o con lei per qualche tempo, ma non a lungo, perché basta appena il battere di un secondo per guardare in fondo ai suoi occhi verdi e scoprire se stessi. La voce sognante si era abbassata e infine taceva. La luce del giorno non entrava più dalla finestra e lentamente calava il crepuscolo. Nella camera dei bimbi non si udiva che il tic-tac del pendolo. Con uno scatto, come se ritornasse da molto lontano, Mary Poppins si voltò verso i bambini. Nei suoi occhi corse un'espressione d'ira. «Ti posso chiedere che cosa fai fuori dal letto? Credevo che tu morissi dal mal di denti, Michael. E tu perché mi guardi con tanta insistenza, Jane? Non sono un orso ammaestrato». E afferrando la sua lana si rimise a dipanarla con foga. Con un grido Michael si precipitò a letto, ma Jane non si mosse. «Mi domando chi sono io», disse sottovoce, metà a se stessa e metà a Michael. «Oh, io so bene chi sono», disse Michael con fierezza. «Io sono Michael George Banks del Viale dei Ciliegi. Non ho certo bisogno che il gatto me lo dica». «Lui non ha bisogno di nessuno per niente, intelligentissimo signor Vanesio», lo aggredì Mary Poppins con un sorriso di scherno. «Quando sarà di ritorno», mormorò lentamente Jane, «guarderò bene in fondo ai suoi occhi verdi». «Tu e i tuoi occhi verdi e profondi, ma via! Faresti meglio a guardare la tua faccia nera e vedresti che devi lavarti prima di andare a tavola», sbuffò Mary Poppins come era solita fare. «Forse non tornerà indietro», disse Michael. «Un gatto che poté guardare un re», egli pensava, «difficilmente vorrà sprecare il suo tempo sulla mensola di un caminetto». «Oh, sì, tornerà, non è vero, Mary Poppins?» La voce di Jane era piena di timore. «Come posso saperlo io?» interruppe bruscamente Mary Poppins. «Non sono una pubblica biblioteca». «Ma il gatto appartiene a Michael». E Jane ricominciava a discutere quando la voce della signora Banks la interruppe. «Mary Poppins!» chiamava la voce dal fondo della scala. «Potete venire un momento da me?» I bimbi si guardarono l'un l'altro incuriositi, poiché la voce della mamma era alquanto allarmata. Mary Poppins corse fuori e Michael per l'ennesima volta gettò via le lenzuola e corse con Jane in cima alla scala. Nell'ingresso il signor Banks stava con aria disfatta e abbandonata su di una seggiola. La signora Banks, ansiosa, gli batteva piccoli colpi sulla testa e gli faceva centellinare dell'acqua. «Deve aver subito una forte emozione», ella spiegò a Mary Poppins. «Puoi dirci esattamente, George, che cosa ti è capitato? Qual è la causa del tuo malessere?» Il signor Banks alzò un viso spettrale e bianco come un panno lavato. «Un esaurimento nervoso. Ecco qual è la causa. Lavoro troppo, vedo delle cose strane». «Quali cose?» domandò la signora Banks. Il signor Banks bevve un sorso d'acqua. «Stavo girando l'angolo del viale quando...» ebbe un sussulto e chiuse gli occhi. «Lo vidi proprio lì, davanti alla nostra porta». «Ma che cosa hai visto?» gridò angosciata la signora Banks. «Una cosa bianca, era come un leopardo e aveva dei non ti scordar di me sul pelo del dorso. Quando arrivai alla porta d'ingresso mi guardò, uno sguardo verde, selvaggio, dritto nei miei occhi, poi ammiccò e disse «Buonasera, signor Banks». «Miau!» e scomparve nel viale. «Ma cominciava a discutere la signora Banks. Il signor Banks l'arrestò con un gesto della mano. «So già che cosa mi vuoi dire. Ebbene, no. I leopardi sono tutti chiusi in gabbia nel giardino zoologico. In ogni modo non hanno dei non ti scordar di me sul loro dorso. Lo so perfettamente, ma ciò prova appunto che sono molto ammalato. Faresti meglio a chiamare il dottor Simpson». Dal corridoio in alto venne un singhiozzo soffocato. La signora Banks corse al telefono. «Che cosa succede lassù?» chiese, irritata. Ma Jane e Michael non potevano rispondere, erano presi da un riso sfrenato e si contorcevano, rotolandosi e barcollando sul pavimento, boccheggiando e sbellicandosi dalle risa. Mentre il signor Banks descriveva il suo malore, un'ombra bianca era apparsa alla finestra nella camera dei bambini. Agilmente era saltata dal davanzale sul pavimento e poi al suo posto sulla mensola del camino. Ora se ne stava con la coda avvolta intorno alle zampette e i baffi ben tesi ai lati del muso. Screziato di lucenti fiorellini, guardandosi intorno attentamente, stava seduto, tranquillo e silenzioso, il gatto di porcellana di Michael. «Ebbene, siete proprio dei bambini senza cuore e senza sentimento!» La signora Banks li stava osservando urtata e scandalizzata, ma essi risero ancora più forte, si inghiozzarono e tossirono, finché Mary Poppins non si chinò su di loro fissandoli con il più feroce dei suoi cipigli. Allora, finalmente, si fece silenzio e le risate si spensero, perché quello sguardo, come Jane e Michael ben sapevano, bastava per gelare di colpo ogni risata.